in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi la maggior parte dei quotidiani titola sulle notizie che sono arrivate da Washington, dove sono riuniti tutti i governatori, i ministri economici e dove c'è anche il governatore della BCE Draghi, e il tema principale naturalmente è quello della Grecia, della trattativa con la Grecia che deve scongiurare il fallimento, e però non è facile scongiurare questo fallimento, perché c'è in ballo la restituzione di una tranche di un debito al Fondo Monetario Internazionale che la Grecia in questo momento non è in grado di rimborsare. E allora il titolo del Corriere: Atene ora preoccupa Draghi. Vedremo come appunto le parole di Draghi sono state interpretate soprattutto nei titoli in modi un po' diversi. Il Corriere mette come virgolettato: abbiamo più difese, l'ha detto Draghi ieri, ma con un'altra crisi saremmo in acque inesplorate. Moltissimi commenti, con anche una approfondimento di Danilo Taino che approfondisce appunto l'ipotesi che si è fatta strada, ma di cui non si hanno conferme, che alla Grecia sarebbe per arrivare un forte aiuto dalla Russia di Putin. La febbre in Grecia che Mosca non cura. La fotonotizia è dedicata all'incontro che c'è stato ieri tra il Presidente della Repubblica Mattarella e Papa Bergoglio. Sullo sfondo si vede la figlia di Mattarella, Laura, e il titolo che il Corriere ha scelto è il Papa riceve Mattarella, grido per i disoccupati, perché proprio di crisi economica e di disoccupazione hanno parlato i due uomini, il presidente Mattarella e Bergoglio. La Repubblica, ma un titolo abbastanza simile a quello del Corriere: Draghi alla Grecia, dovete fare di più se volete salvarvi. Al vertice di Washington c'è anche il ministro delle finanze greco Varoufakis, che ha detto di essere ottimista. Buon per lui, perché in realtà purtroppo i segnali non fanno essere molto ottimisti, perché lo stesso Varoufakis aveva spiegato che la Grecia ha in cassa 2 miliardi e poi non ci sono più soldi, ma con questi 2 miliardi bisogna pagare da qui a sempre in realtà, perché di entrate la Grecia in questo momento ne ha pochissime, per esempio tutti gli stipendi pubblici, oltre ai numerosissimi debiti. Però appunto lui ha detto: sono ottimista. La fotonotizia scelta da Repubblica è completamente diversa da quella del Corriere, perché ieri ci sono stati, sapete, molti episodi di tifo violento, addirittura gli ultra hanno devastato lo stadio di Varese impedendo poi che si giocasse la partita tra Varese e Cagliari. Quindi il titolo è: tifo violento, devastato lo stadio Varese, aggrediti i giocatori del Cagliari. E il commento è di Gianni Mura: spalti vuoti contro il branco. Il Sole 24 Ore naturalmente titola su quello che sta succedendo a Washington, sul vertice di Washington. Quindi Draghi, il destino di Atene nelle mani del suo governo. Tsipras, come abbiamo visto anche sul Corriere, c'è questa ipotesi che Tsipras, il premier greco, starebbe trattando con Mosca per avere 5 miliardi che non sono in realtà un prestito di Mosca alla Grecia, ma sono un anticipo sui diritti del futuro gasdotto che dalla Russia passerà anche per la Grecia. Vi segnalo un focus sul Sole 24 Ore, sul Salone del Mobile che chiude oggi a Milano. È stato il Salone dei Record, come commenta l'analisi, come si legge nell'analisi di Lello Naso, ma è stato anche una conferma che il Made in Italy può ripartire dal mobile, che è uno dei grandi settori appunto del Made in Italy, insieme alla moda, all'abbigliamento e al cibo, naturalmente poi alla meccanica. Questi sono poi quattro settori, tra l'altro con un altissimo tasso di export. Quindi Laura Cavestri, che ieri ha fatto anche un giro al Salone, il sabato e la domenica al Salone sono i giorni in generale in cui il Salone è aperto anche al pubblico, se no è una fiera professionale. Il Salone è quello, diciamo, proprio la fiera vera e propria, che è a Ropero. Poi naturalmente sappiamo che c'è il fuori Salone di Milano, che dà alla città un aspetto completamente diverso e che questa volta è stato anche un po' una prova generale per Expo. Vi segnalo come sempre alla domenica l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che torna sulla questione del genocidio armeno, educare per non dimenticare. Sapete, c'è stata la durissima polemica tra Papa Bergoglio, che ha definito il genocidio degli armeni il primo genocidio della storia, con tutto quello che ne è seguito, perché in realtà la parola genocidio non era ancora stata inventata quando c'è stato il genocidio degli armeni, che però ha il suo nome alla luce appunto poi di quello che la storia ci ha tramandato. È quello, sapete, la relazione durissima del premier Erdogan, perché questo genocidio è avvenuto ad opera dell'allora governo turco, e la durissima reazione del premier turco Erdogan e il Vaticano che non ha più commentato niente, come dire noi non ci muoviamo da quella posizione. Il commento alla questione greca è di Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore: salvare la Grecia non basta più, e poi ne leggeremo una parte. La lettera al risparmiatore, come sapete la pagina intera che ogni domenica Vittorio Carlini della redazione di Finanza dedica un titolo quotato per dare un consiglio ai risparmiatori sull'opportunità o meno di investire in quel titolo, oggi è Reply, che è un'azienda del software, svolta nella strategia, obiettivo crescita negli Stati Uniti. Quindi anche a volte le aziende appunto informatiche italiane possono aspirare a esportare i loro prodotti all'estero, addirittura nella patria della high-tech, che è naturalmente è stata o forse è ancora gli Stati Uniti. Un altro intervento di oggi sulla prima pagina del Sole, che poi continua a pagina 20, è di Luca Ricolfi, che da quasi 2 mesi è diventato nostro editorialista, prima lo era per La Stampa. Il titolo è Nel segno della nostalgia ed è un interessante resoconto della visione che Ricolfi ha fatto dell'ultima puntata del programma Servizio Pubblico di Michele Santoro. Sapete che sostanzialmente c'era un ospite unico, Pierluigi Bersani, che è stato intervistato da tre giornalisti, Lucia Annunziata, Enrico Mentano e Mario Giordano, che gli hanno fatto moltissime domande, e Luca Ricolfi ci racconta un po' appunto le sue impressioni. Vi una piccola parte. La minoranza PD, dopo aver perso e malamente combattuto la battaglia sul Jobs Act, si concentra sulla legge elettorale. La minoranza PD, perché naturalmente Bersani è esponente di questa minoranza PD, un tema che lascia indifferente la maggior parte delle persone normali, mentre è enormemente sopravvalutata dagli addetti ai lavori, quasi che il disastro italiano fosse il frutto non voluto di cattive regole del gioco, anziché l'ovvia conseguenza di una classe dirigente e di un'opinione pubblica non all'altezza delle sfide del nostro tempo. La prima pagina della Stampa ha una fotonotizia ancora diversa, che è dedicata a quello che è successo ieri, perché sono ripresi, o comunque abbiamo ripreso a dare grandi spazio alle azioni dell'ISIS. Il titolo di Paolo Mastrolilli da New York, che racconta anche le reazioni dall'America di questa continua offensiva dell'ISIS: azioni americane anche in Libia per proteggere l'Italia, ecco il piano per arginare l'ISIS fuori da Iraq e Siria, perché sapete che l'ISIS appunto ha le sue mire ben oltre i paesi dove è più fortemente radicato in questo momento, cioè l'Iraq e la Siria. E il titolo in realtà è ancora diverso rispetto al titolo principale della Stampa e agli altri giornali, e riguarda le novità, la riforma del fisco. Quante volte abbiamo parlato di riforma del fisco, di fisco che diventerà finalmente più amico. Ecco, le novità per i privati, la Stampa prende in esame tutte le novità per i privati nei decreti che il governo dovrebbe varare o varerà martedì. Quindi riforma del fisco, aiuti a chi sceglie per esempio la fattura digitale. Poi però c'è un accenno alle parole di Draghi: se la crisi greca peggiora saremo in acque inesplorate. Sopra il titolo, sapete, in quello che noi in gergo chiamiamo palchettone, quindi sopra il titolo, non sempre sopra il titolo viene messo un richiamo a un articolo, oggi però c'è, perché c'è un'intervista al presidente Napolitano, l'ex presidente della Repubblica Napolitano, che parla della liberazione. Adesso manca ancora qualche giorno, la festa lo sappiamo è il 25 aprile, però come sempre questi anniversari, lo vedremo anche sul Sole 24 Ore della domenica, vengono un po' anticipati, c'è sempre la corsa un po' a chi ne parla per primo. Oggi ne parlano in molti, e per esempio appunto Napolitano in questa intervista a Walter Barberis racconta la sua guerra di liberazione. Il Messaggero apre proprio con un virgolettato di Draghi: caso Grecia l'Italia non rischia. C'è poi un'intervista richiamata in prima pagina a Romano Prodi, sapete, è appena uscito un suo libro e quindi lo stanno intervistando in molte. C'è questa idea di partito della nazione, cioè un partito che mini un po' il bipolarismo che secondo Prodi e molti altri è comunque auspicabile, e quindi insomma l'intervista verte anche su quello. E poi, perché avrete sentito sicuramente nei giorni scorsi, questo sciopero della metropolitana che c'è stato a Roma, che ha provocato delle proteste anche molto dura dei pendolari, perché è stato all'improvviso, nessuno lo sapeva, e Marino ieri ha reagito in modo molto duro, dicendo che vuole Marino, sindaco di Roma, Ignazio Marino, dicendo che vuole sanzioni esemplari per chi ha creato il disagio, arrivando addirittura a dire che per lo sciopero selvaggio ci potrebbero essere dei licenziamenti. La fotonotizia è simile a quella della Stampa e riguarda l'ISIS, la strage che c'è stata ieri in Afghanistan e che appunto l'ISIS si è subito attribuito. E l'Avvenire apre naturalmente con l'incontro che abbiamo detto che c'è stato ieri in Vaticano, è stato il primo incontro tra il capo dello Stato Mattarella e Papa Francesco, il titolo per il bene di tutti, e il Papa ha detto a Mattarella: per ridare un futuro all'Italia bisogna mettere al centro lavoro, giovani, famiglie e migranti. E ci sono i discorsi che hanno una trascrizione quasi integrale dei discorsi trovati a pagina 5-6, ma vi segnalo anche lo speciale sulla Sindone, perché dal 24 giugno ci sarà una nuova occasione, cioè l'ostensione della Sindone, che sapete il lenzuolo in cui si dice sia stato avvolto Gesù dopo la sua morte, dopo essere stato tolto dalla croce, e non viene, è molto delicato questo lenzuolo, perché se è vero immaginate quanti anni ha, appunto adesso c'è un nuovo ciclo di ostensione L'Avvenire naturalmente parla di questa notizia, e poi il mensile Luoghi, che è il mensile allegato all'Avvenire una volta al mese appunto, è quasi interamente dedicato alla Sindone. Anche sul Corriere della Sera comunque si parla di questo, per esempio mi era caduto l'occhio prima con un articolo di Aldo Cazzullo, di cui vi leggo solo la prima parte per capire appunto perché vi dico che la Sindone è sicuramente un fortissimo valore simbolico, ma gli storici ancora si dividono sulla sua autenticità. 1 milione di prenotazioni per vedere il lenzuolo che molti storici considerano un falso medievale, un fatto che va oltre la fede. È la conferma di un'Italia che dopo gli anni della decostruzione e la dissacrazione avverte il bisogno di ricostruire, che dopo il tempo del lamento e del discusso di sé vuole sentirsi comunità e ritrovare le radici. Questa appunto l'idea di l'interpretazione di Aldo Cazzullo, la sindrome dell'Italia che vuole ripartire, che è un articolo che trovate sulla prima pagina e poi all'interno del Corriere della Sera. Il giornale, un'apertura completamente diversa, l'università islamica abusiva, un caso scovato dal giornale, un'università che aprirà a Lecce, che non ha ancora i permessi ma che può già essere costruita. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, che abbiamo visto oggi hanno titoli un po' diversi, anche se tutti comunque richiamano l'attenzione sul vertice che c'è stato a Washington con le dichiarazioni di Draghi, caute ma non troppo, di cauto ottimismo ma non troppo sulla crisi greca, che insomma deve essere risolta in qualche modo. Libero, come dicevo appunto, i titoli oggi sono diversi. Libero ha un titolo invece completamente diverso, perché è il richiamo di un lungo servizio di Ugo Bertone, che poi trovate a pagina 7, che spiega come guadagnare col crack greco. Ecco, quindi la Grecia c'entra ma in un modo appunto diverso. Margini di manovra sui titoli di Stato: i più coraggiosi, secondo l'analisi di Bertone, possono puntare a incrementi anche del 20%. Attenti ai mutui, l'Euribor salirà, il tasso quindi di riferimento europeo. In borsa, ecco i titoli che soffriranno, un'altra serie di suggerimenti di Bertone: è il momento di cambiare, con un occhio di riguardo a Russia e mercati emergenti. Vediamo invece la prima pagina del Secolo, XIX, il quotidiano di Genova. Ve lo segnalo per due motivi. Primo, perché oggi Renzi sarà a Sanremo per sostenere la candidata del PD alle regionali, Paita. C'è un sondaggio e che la candidata appunto Raffaella Paita sarebbe avanti di 15 punti sulle elezioni, in vantaggio su Giovanni Toti, che sapete è il candidato del centrodestra. Ricorderete anche che la Paita intanto è indagata per non aver dato, ha ricevuto un avviso di garanzia, quindi è indagata per non aver dato sufficienti preavvisi quando c'è stata l'alluvione nel 2014. Ma vi segnalo anche un articolo di Marco Menduini che racconta la storia di un poliziotto genovese, si chiama Giampaolo Trevisi, e che adesso è il direttore della scuola allievi della polizia di Peschiera del Garda, promosso dirigente nel 2014, che ha fatto vedere il film Diaz, che racconta, è un film, non è un documentario, però racconta in qualche modo quella tremenda vicenda la sera del 21 luglio luglio 2001, quando appunto nella scuola Diaz, secondo la Corte Europea, c'è stata tortura, secondo Amnesty International c'è stata la più grande sospensione dei diritti umani dopo la Seconda Guerra Mondiale, secondo alcuni che hanno partecipato, alcuni poliziotti, c'è stata una macelleria messicana. Ecco, questo poliziotto, dirigente della scuola di polizia, ha fatto vedere il film ai suoi allievi e ora è duramente attaccato da tanti suoi colleghi e anche da alcune parti del sindacato dei poliziotti. Questo per dire quanto ancora la ferita Diaz sia aperta e quante ancora polemiche susciti. Ma vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che titola invece sull'incontro, sul viaggio di Blitz, il Blitz di Obama, di Renzi da Obama. Renzi da Obama a De Luca, perché appunto dicevamo oggi Renzi va a sostenere sia la candidata Paita in Liguria che un altro candidato molto contestato, che è Vincenzo De Luca, per la campagna in questo tour elettorale. E guardiamo un attimo la Gazzetta dello Sport, perché la Gazzetta definisce la Juve cannibale. Ieri ha fatto due gol al Lazio e ha naturalmente si è assicurata lo scudetto, e così il titolo è Tevez fa le uova scudetto. Stasera naturalmente poi c'è un grande spazio al derby di stasera, saranno in 75.000, si prevede, a San Siro per Inter Milan, derby speranza, Toir chiede la bolgia, Silvio la svolta. Toir naturalmente il proprietario dell'Inter, e Silvio Berlusconi, il proprietario del Milan. Ultima prima pagina che vi segnalo, quella del Manifesto, matite rosse. Il riferimento, il Manifesto è il giornale che dà più spazio a questa notizia, è allo sciopero generale della scuola che è stato proclamato ieri per il 5 maggio. I sindacati della scuola proclamano lo sciopero generale per il 5 maggio contro la riforma di Renzi. Era dai tempi della Gelmini che non si arrivava in una protesta così forte. La Gelmini era stata ministro dell'istruzione nel governo Berlusconi. Sotto l'accusa l'articolo 12 di questo decreto legge, che chi ha lavorato 36 mesi sarà licenziato, cioè sostanzialmente non c'è la stabilizzazione dei precari che si chiedeva. Il Manifesto è anche l'unico giornale che mette in prima pagina, anche se poi trovate la notizia anche su altri giornali, la mobilitazione che c'è stata ieri in 734 città del mondo contro il TTIP, che è quel trattato su cui stanno lavorando da tantissimo tempo e che mi ricordo di averlo citato in una rassegna stampa europea del sabato. Molto probabilmente, secondo la maggior parte degli osservatori, non si riuscirà a firmare entro il 2015, nonostante gli auspici. È un trattato che dovrebbe rimettere ordine in tante questioni economiche, di rapporti economici tra Stati Uniti e Unione Europea, ma che incontra tantissimi ostacoli. Ma veniamo un po' alle pagine interne. Sul Sole 24 Ore, vi dicevo, trovate l'editoriale di Alessandro Praterotti, vice direttore del nostro giornale. Per l'Europa salvare la Grecia non basta più, l'analisi la trovate a pagina 3, iniziamo a pagina 1. Alla copertina di Imprese e Territori, dedicata, come vi dicevo, al Salone del Mobile, il Made in Italy riparte dal mobile, ci sono i numeri che fotografano questo settore importantissimo per l'economia italiana, e anche tutti i trend del Salone, che nel 2015 probabilmente batterà ogni record di pubblico e anche soprattutto di operatori, perché come vi dicevo è una fiera che per 4 giorni è dedicata agli operatori, poi è anche aperta al pubblico. E poi ci sono anche tutte le provenienze, e la maggior parte dei visitatori vengono dall'Europa, ma ce ne sono tantissimi anche dalle Americhe, con paesi emergenti o che non si erano visti con questi numeri nelle edizioni scorse, come il Brasile, o dall'Africa, dove si sono visti molti egiziani, e persino da lontanissimo, dall'Australia. C'è poi un approfondimento di Sara Monaci sul nodo della viabilità dell'Expo. Abbiamo detto, il Salone del Mobile è un po' una prova generale per l'Expo che inizia il 1 maggio. Ecco, però ci sono molte criticità sull'accesso al sito dell'esposizione, che è molto vicino, per questo si può fare un po' il paragone alla fiera di Ropero, e secondo appunto questa analisi di Sara Monaci c'è un rischio ingorghi tra Viale Zara e l'Expo, e tra Ro e Monza. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un'intervista al ministro Delrio, che ha sostituito Maurizio Lupi alle infrastrutture. Una cosa che Delrio chiede in questa intervista è che si cercherà di trovare poi una formula per fare un vero e proprio provvedimento, una tregua per Expo e Giubileo, si sospendano gli scioperi nei trasporti. Poi vi segnalo sempre dal Corriere un'intervista a Laura Boldrini, che è un po' come spesso le capita, in realtà un po' al centro delle polemiche dopo quella sul fatto che vuole che vengano declinati al femminile tutti gli incarichi. Ed è divertente perché l'intervistatrice, che è una donna, Monica Guerzoni, nella prima domanda dice presidente e non presidentessa, ma vabbè, ve lo segnalo così come nota di colore. Vi leggo due domande e due risposte. La voce del Parlamento italiano è spesso soffocata dalle grida dello scontro quotidiano fra i partiti e dentro i partiti, e Boldrini risponde: lo stato di salute è migliore di quanto appaia, perché quello che emerge purtroppo è la parte meno edificante, le risse, gli insulti in aula e le polemiche. Invece, se vogliamo fare anche una comparazione con gli altri parlamenti dei paesi europei, scopriremo come il nostro sia uno dei più produttivi per numero di sedute, di atti elaborati, di ore di lavoro e di temi sottoposti al suo esame. Certo, non mi sfugge che molte cose sono da migliorare, motivo per cui continuo a sollecitare i gruppi perché chiedano di portare in aula la riforma del regolamento. Ultima domanda: con l'Italia come la riforma costituzionale, il Parlamento italiano continuerà a avere un ruolo centrale nel sistema? Sarebbe scorretto un mio pronunciamento su provvedimenti ancora in itinere? Adesso ditemi voi se le persone parlano così, io non credo, comunque magari Boldrini veramente parla così. E poi continua: mi riservo di dare un giudizio compiuto all'esito del percorso. Ovviamente che da tutto questo lavoro esca un Parlamento rafforzato è il mio forte auspicio. Le democrazie moderne hanno bisogno di istituzioni forti e autorevoli. Siamo d'accordo. Poi vi segnalo un bel articolo di Danilo Mainardi, che sapete è un etologo e ogni tanto, spesso la domenica, scrive per il Corriere, e prendendo spunto da una ricerca apparsa su Science ci spiega, in questo articolo intitolato Sguardi d'amore, che il linguaggio degli occhi tra cane e padrone, secondo appunto questo titolo di Science, è molto simile, anzi identico, a quello di mamma e neonato. A proposito di Boldrini, legandoci un po' alla Boldrini, perché sapete che due o tre giorni fa ha detto di voler scrivere, di voler togliere dal Foro Italico la scritta Dux Mussolini, Mussolini Dux, suscitando moltissime polemiche. Un bellissimo pezzo di Paolo Conti, che scrive spesso di architettura per il Corriere, che si intitola Demolire la storia, dalle statue ai palazzi, la polemica sulle opere del fascismo. Ma oggi il razionalismo, che appunto include tante delle opere sorte durante quel periodo, è il movimento più studiato al mondo. Un'ultima segnalazione, no, abbiamo tempo ancora magari per un paio prima della pausa per il traffico, un reportage, trovate la notizia anche su altri giornali, non con questa enfasi, da Johannesburg di Paolo Gibrera, perché a Johannesburg ci sono dei disordini enormi ormai da parecchi giorni, e soprattutto i residenti se la prendono con gli immigrati, è un po' una guerra tra poveri. Comunque ci sono stati 6 morti e decine di arresti, e la protesta si sta estendendo al resto del paese. Su Repubblica trovate anche 2 pagine di ricordo di Mario Pirani, un grandissimo giornalista che fu tra i fondatori di Repubblica, che è morto ieri a 89 anni, quindi l'articolo principale di Simonetta Fiori, addio a Pirani maestro laico, e poi un ricordo di Eugenio Scalfari, che è stato fondatore per tantissimi anni, sappiamo anche direttore di Repubblica. In primo piano. Ancora buona domenica, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi segnalo dalle pagine interne della stampa un'intervista della serie Domenica con, che sono le interviste fatte da Alain Elkan, Alberto Vitale. Alberto Vitale è un italiano che però vive da tantissimi anni negli Stati Uniti, dal 1989 al 98 è stato presidente di Random House, che è la casa editrice più grande degli Stati Uniti. Io me lo ricordo all'inizio degli anni 2000 che profetizzava la supremazia dei libri elettronici. Oggi dice una cosa un po' diversa e secondo me molto interessante: i libri hanno un grande futuro, non solo digitale. Si è un po' ricreduto sulla centralità della carta, anche se continua a dire che Amazon e gli ebook e la diffusione degli ebook hanno avuto comunque un effetto positivo sull'industria dell'editoria. Dalle pagine interne dell'Avvenire vi segnalo un approfondimento che non trovate con questo spazio sugli altri giornali sulla questione Whirlpool. Tantissimo spazio quando la Whirlpool ha annunciato molti più licenziamenti di quelli che aveva promesso quando ha acquistato la Indesit, e ora sull'Avvenire appunto Marco Iasevoli da Roma ci racconta le promesse di Renzi ai lavoratori Whirlpool: parlerò con l'azienda, Caserta non chiuderà, lo stabilimento Indesit di Caserta, e per domani lunedì è previsto appunto un incontro tra la multinazionale e i sindacati. E un approfondimento, perché anche in questo l'Avvenire meritorio non parla soltanto della crisi Whirlpool ma di tutte le altre crisi. Al Ministero le crisi non finiscono mai, in un anno anno sono stati risolti 40 casi, ma i tavoli aperti restano più o meno gli stessi. E ancora dall'Avvenire, meritoriamente di nuovo, torna su una notizia che su molti altri giornali è stata solo una fiammata, quella dello storico accordo, la storica stretta di mano di cui abbiamo parlato anche noi domenica scorsa tra Raul Castro e Barack Obama. Cuba, il lento adios all'embargo, presto 1 milione di americani. Dopo la svolta ci saranno più turisti, ma si scopre in questo reportage di Elena Molinari, inviata a Havana per l'Avvenire, che c'è anche un'industria, ci sono alcuni settori che stanno crescendo a Cuba, come per esempio quello delle biotecnologie. Passiamo un po' ai supplementi culturali, non abbiamo tanto tempo, ma ci tengo naturalmente a segnalarveli. Della Domenica del Sole parlerete anche dopo con Alessio Maurizi in Si può fare. Vi segnalo comunque che la copertina è dedicata alla Resistenza, con l'anticipazione di un intervento che Emilio Gentile, che è un collaboratore del Sole 24 Ore, terrà il 25 aprile in occasione dell'iniziativa Libertà, una maratona di storia, letteratura, cinema e musica che si terrà a Roma all'Auditorium. Il breviario di Gianfranco Ravasi oggi si intitola L'eguaglianza e la citazione è: il massimo della diseguaglianza è fare parti uguali tra diseguali. L'égalité, non solo per la Francia ma per tutte le società moderne, è un segno di civiltà, di dignità, di rispetto dovuto a ogni persona. Tuttavia bisogna anche fare attenzione a non trasformarlo in un idolo, ossia in un dogma assoluto. È ciò che viene ricordato da Don Lorenzo Milani, era sua appunto la citazione iniziale, con l'acutezza che sempre lo distingueva nel cogliere la verità della vita autentica. La stessa imparzialità assoluta del giudice non può essere una norma intangibile, tant'è vero che si riconoscono anche le attenuanti: chi ruba per arricchirsi sempre più e chi ruba per fame non possono stare nella stessa casella. È curioso notare che Dio nella Bibbia è celebrato come il giudice supremo, eppure in non pochi passi è presentato come l'avvocato difensore, in ebraico Gohel, della vedova, dell'orfano, dello straniero e del povero. E poi la rubrica del nostro direttore, del Sole 24 Ore di Radio 24, Memorandum, è dedicata a un incontro che il direttore ha avuto giovedì sera. Il nostro direttore è sempre un po' in viaggio tra Milano e Roma, appunto ha lasciato Milano, è andato a Roma e ha incontrato Rino Barillari, che viene sempre definito o The King oppure il re dei paparazzi, e che a Roberto Napoletano serve sempre, ci spiega in questo intervento, per sentire un po' il polso di Roma. E qui gli ha raccontato di un lettore che ha cercato il sole in un piccolo paese fuori Roma, e quindi con un giusto ottimismo, perché come lo diciamo sempre, noi diciamo sempre, io vi consiglio sempre di leggere i giornali, di approfondire sulla crisi greca, quanti approfondimenti trovate oggi sul Sole per cercare veramente di capire cosa sta succedendo. E quindi insomma mi piace leggere le ultime righe dell'editoriale del nostro direttore, perché è un po' un incoraggiamento a tutti noi in un momento difficile per l'editoria, per i quotidiani. E la conclusione è questa: continuo a pensare che se c'è gente che chiede il sole a Sacrofano, appunto un piccolo centro che viene definito un piccolo centro di tante persone per bene, vuol dire che in questo paese tutto sommato sono cambiate molte cose, e tutto sommato per noi mi sembra una buona notizia. Ma è sempre una buona notizia insomma quando si vede che le persone vogliono informarsi, vogliono sapere di più. Un'altra ottima notizia la trovate sempre sul Domenicale: Roberto Casati, che ha raccolto due saggi che spiegano perché la carta è meglio. Numerose ricerche mostrano che quando si tratta di studiare, fissare le idee e orientarsi, i vecchi manuali sono da preferirsi ai supporti digitali. E passiamo, perché come dicevo, poi della Domenica del Sole parlerete sicuramente anche, si parlerà anche poi con Alessio Maurizi. La lettura, il supplemento del Corriere della Sera, la copertina come sempre affidata a un artista, oggi è Vittorio Gregotti l'architetto, e in prima pagina c'è un suo disegno. Pagine 2 e 3, un divertente, ma forse anche un po' triste a tratti, però comunque piacevole da leggere, approfondimento di Chiara Gamberali sul cinismo. Perché la crisi, il terrorismo e l'invidia digitale ci rendono più cattivi con tutti, escluso il cane, perché poi naturalmente c'è molta ironia, c'è un tocco di leggerezza anche nell'articolo di Chiara Gamberali, come in quasi tutti i suoi interventi. E poi molto interessante secondo me è un articolo di Giuseppe Remuzzi, che è un divulgatore ma soprattutto è un medico, che ci racconta un progresso della neurobiologia molto interessante. Il titolo dell'articolo è L'interruttore della malattia mentale. Un gruppo di scienziati ha scoperto alterazioni a carico di certe molecole del microRNA, quindi una parte del patrimonio genetico, e questo apre scenari sorprendenti anche nel campo della gestione sociale della follia e dell'amministrazione della giustizia. La Domenica della Repubblica ha una copertina scritta da Attilio Bolzoni dedicato alla mafia, perché noi diamo per scontato forse che questa sia una parola del vocabolario italiano da chissà quanto tempo, in realtà fu scritta per la prima volta 150 anni fa su un documento ufficiale e purtroppo divenne storia, e qui ce lo riracconta Attilio Bolzoni. E poi due pagine bellissime che sono tratte da un libro che si chiama Women for Expo, che è una raccolta di 104 racconti da 100 paesi, che sarà in distribuzione dal 1 maggio, quindi quando inizierà l'Expo, e si chiama We Women for Expo, e in questo caso i racconti riportati da Repubblica sono due: una di Anita Nair, la scrittrice indiana, e uno di Amélie Nothomb, la scrittrice francese, sempre con il tema donne e cibo, rapporto con il cibo, rapporto delle donne con il cibo. Molto interessante, una approfondimento di Repubblica su un fenomeno che in America esiste e che forse prima o poi arriverà anche qua. In America è lecito cedere un quadro di una collezione di un museo privato, l'ha fatto il MoMA per esempio, il Museum of Modern Art, mettendo sul mercato un suo Monet perché aveva bisogno di soldi. In Europa si guarda questo modello, in Italia è vietato fare questo. È giusto che un bene pubblico diventi merce di scambio? L'ultimo approfondimento, un po' più leggero, da Macro, il supplemento del Messaggero: la difesa della Terra, attacco agli asteroidi. Abbiamo visto tantissimi film di fantascienza in cui la Terra veniva minacciata dagli asteroidi. C'è però un vero e proprio progetto, un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, e che appunto servirebbe a fugare completamente questa paura, perché nel caso veramente un asteroide minacciasse la Terra, questo progetto europeo potrebbe distruggerlo prima che colpisse la Terra. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ancora una buona domenica. Sui giornali trovate tantissime cose da leggere oggi, come sempre del resto, e quindi insomma, se avete voglia, magari prima di uscire a prendere questo sole primaverile ancora un po' fresco, approfittate dei giornali di oggi. Ancora buona domenica, un grazie a Peter Bescatè in regia che mi ha tenuta nei tempi, e a presto da Giulia Crivelli.